dato in Roma di 22 del mese di ottobre dell'anno del Signore 1867. Beatissimo Padre, il sottoscritto Monsignor Colombo da Priverno dichiara. Aspettate, prima mettiamo chi siete. Come chi so? Giudice del Tribunale Supremo della Sacra Consulta. Dichiara. Vescovo ausiliario d'Itri, Sovilo e Castro dei Volsci. Dichiara. Pretore del Pontificio Collegio di Ciociaria e Terra di Lavoro. A capo. A capo dei titoli. Dei titoli, sono finiti i titoli. Andiamo al fatto, Serafino. Come volete voi. Dove eravamo rimasti? A dichiara. Dichiara. Dichiara. E che... niente. Non dichiaro niente, qua c'è una premessa di carattere generale. Cancello. Scrivi. Visto lo stato miserevole in cui si trova Roma, in questi giorni di angoscia e di paura. Di paura. Porte della città murate a pozzolana. Strade deserte come se fosse scoppiata il colera. Cannoni sulle piazze. Barricate. Pattuglie di zuavi che battono il selciato giorno e notte. Giorno e notte. Che hai lasciato aperto? È il periodo. No, sento uno spiffero, una correntina d'aria. È tutto chiuso. E vabbè, ma allora che è sto gelo che mi corre su per filo dalla schiena? È quello che invece corre da 20 anni, almeno da quando vi conosco io. Bande garibaldesche che battono il contado. E la rivoluzione che dentro e fuori le mura incalza al grido dissennato, o Roma o morte. A proposito, ma che sarà tutta sta smania di via Roma? Che se ne faranno poi? Gli italiani? Sì, gli italiani. Te ne accorgerai. E visto altresì, beatissimo padre, il tuo silenzio. Ma gli diamo del tuo al papa? Vabbè, tanto in appunto, dopo correggevo. Il tuo silenzio? Di fronte al massacro compiuto dagli zuavi pontifici all'anificio Aiani in Trastevere, là dove i tuoi eroi da presepe hanno scannato 16 romani. Ma devo scrivere proprio così, contestuale? Perché non è vero? Vabbè, vabbè, tanto un appunto, poi correggiamo. No, questo rimane così. Ma come, adesso la piate pure con i zuavi? Gente accorsa da tutto il mondo per rispondere all'accorato appello del pontefice. Cristiani veri, te pede. Vabbè, sono pagati bene, però ci difendono. Contro Giuditta Tavani Arquati? E chi è? Una delle 16 vittime dell'anificio. Ah, qui andiamo bene. Ma come sarebbe? L'hanno scannata come una capra. Gli hanno infierito sul cadavere a baionettate. Oh, una donna di 42 anni incinta che te ne incontro col fioletto al collo. E la pistola a mano. Manco quella gli volevi dare. Scrivi. Per sottoscritto, eccetera, eccetera. Ferito da tali avvenimenti e dopo alcune notti passate insonne. Insonne? Insonne? Insonne. Ad ascoltare la voce della coscienza e l'esplosione delle bombe alla Orsini, che ormai a Roma scoppiano dappertutto. Dappertutto? Però, hai notato, Serafì? Stanotte non si è inteso manco un botto. Aspettate a dirlo. Beh. Ma portassi pure iella tu. Casomai sono un presago. Beh, lo stavo a dire pure io. Dove eravamo arrivati? Ho perso il filo. Il discorso è sempre retto dal sottoscritto, e cioè da voi. Bravo. E qua riacchiappiamo dichiara. Dichiara? Dichiara la sua indisponibilità per i processi penali che, in conseguenza ai fatti ricordati, ipso facto seguiranno. E prega pertanto la santità vostra di esonerarlo per il proseguo dall'incarico di giudice e da tutte le mansioni attinenti ad esso ufficio. Le chiamate fuori? Serafì, stiamo a redderazionem è il punto d'arrivo di un grosso travaglio interiore. E proprio adesso? E vabbè, ma la crisi di coscienza viene quando gli parla lei, mica sceglie il momento. E guarda caso, arriva proprio quando che stanno per arrivare gli italiani. Sarà una coincidenza, ma se fossi papà io, mi puzzerebbe tanto da bruciato. Sarà una coincidenza, ma se fossi papà tu, io, guarda caso, mi sono rotto i coglioni proprio adesso. Ma come lui? Voi che siete stato sempre il più fedele difensore del trono di Natale, che avete punito sempre con mano ferma e giusta i ribelli, gli assassini, i sicari, ma se adesso vedrebbe la mano a voi è finita. Serafì, qui non è finita perché arrivano gli italiani. Arrivano gli italiani proprio perché è finita. Non capisco. Non importa. Tu metti solamente a chiude, prostrato come sempre al sacro piede, distinti saluti, Colombo da Priverno. E butta quazzo il seriale giù. Su, dai, dammosela sistemata. Buonasera. Buonasera, Marie. Buonasera. E Gaetano? Adesso viene. Si è fermato un momento giù al cantiere. Vuoi restare a mangiare un boccone con noi? No, grazie, sora Marie, vado a casa. C'ho Lucia da sola con la creatura, come si fa? Resto solo un minuto. Così saluto Gaetano. Mo' viene. Ma davvero volete restare? No, davvero, senza complimenti. Eccolo, va. Ah, ma che via in carrozza! Ha fatti i soldi, eh? È la contessa famiglia. Dove sta Gaetano? Viene subito. Avete fatto un bel capolavoro. Di che? Che ha fatto il comitato rivoluzionario dopo l'attentato all'anificio? Non ha estratto a sorte tre nomi per un'azione di rappresaglia? E io che ne so? Ah, non lo sai! E allora sappi che questi nomi sono già sul tavolo della polizia. Perché grazie a Dio le spie a Roma non mancano mai. E stando al fatto che stanotte è saltata per aria la caserma degli Zuavi, si suppone per rappresaglia, che dite che gli succederà sti tre? Ma chi so sti tre? E che ne so? Chi so? Uno è Giuseppe Monti. L'altro è Gaetano Tognetti, vostro figlio. E il terzo sei tu. Cesare, tu mi hai detto sempre la verità. Gaetano torna a cena o gli devo levare il piatto? Torna. Beh, consolatevi. Voi ci avete solo un figlio in pericolo, io ce n'ho due. Perché il figlio vostro l'ho cresciuto come se fosse il mio. Qui non è un segreto per nessuno. Poi a noi mo che ci frega chi è il padre, chi è la madre? Buona. Oh, qua bisogna tagliare la cosa. Finalmente l'avete capita. Dai che fuori c'è la carrozza, proviamo a passare il confine. Dobbiamo aspettare Gaetano. Ma qui non si può più aspettare nessuno. Diteglielo pure voi, Maria. Boni! Con l'agitazione qui non si risolve niente. E noi dovremmo restare qui. Amà, grazie per l'informazione. Ma adesso è meglio che ve ne andate. Voi non ci sapete vivere nella congiura. Manco noi. Però ci siamo abituati. Passate a quest'altra parte. È Gaetano! E allora? Parla, tanto so tutto. Ho fatto il conto. A tutta adesso tutti i tre cadaveri dei Zuavi sono stati trovati sotto le macerie. Ma che avevamo fatto? Che avevamo fatto? E allora? Giuditta davanti al quadro e vendicare! Allegri, ragazzi! In nome del papalè, aprite! Allegri un cazzo, figlio. Mare, Maria. Pensando, ma adesso che non volete più far giudice, che farete nella vita? La certrete, non basta? Sì, ma ci avrete sempre diritto all'appannaggio? Mo che è sta appannaggio? Io? Un prete, solo un prete. Prete semplice? Sì, semplice. Ci ha diritto al perpetuo? Ah, non so. Può essere pure di no, eh? In quel caso, oh, Serafì, ci rinuncio. Ci rinuncio. E così dopo 20 anni di servizio che non ho mai visto un sordo bucato, uno mi dice a Serafì, ti saluto, arrivederci e grazie. Ma sapete quanti sordi so in moneta 20 anni d'arretrati? Senti Serafì, tu sei l'amministratore della casa, c'hai le chiavi della cassa, via di tutto. E che per Dio, non c'è niente. E allora te pigli niente, ma che fai da me? Io te posso solo benedire, vuoi che te benedico? E basta. Tu fai abbastanza. Bussano. Ho sentito, apri. A gratis? E allora non apri, fa come te pare. C'avete sempre ragione voi. Culo. Sta attento, è così, te puoi pure rompere il femore, eh. Signore. Oh, è la contessa famiglia, prego, signora contessa, accomodatevi. Scusate, monsignore, se vi ho disturbato. No, per carità, scusate voi se io vi dicevo così, ma... siccome che stavamo quando ho letto... Ho fatto tanto, prego, prego, accomodatevi, contessa. Salvatelo, per carità, voi che potete salvatelo. L'hanno arrestato stanotte con altri 2 compagni. L'hanno portato alle carceri 9. Hanno fatto saltare la caserma degli zuari. Vabbè, ma tiratevi su, coraggio, rialzatevi. Mettetevi comodo. Hanno fatto saltare la caserma. A voi non mancherà il modo, potete tutta Roma. E io c'ho solo lui nella vita, non c'ho altro. È il vostro amante? Da voi non me l'aspettavo. Beh, è quello che si dice. Lo dice anche mio marito, che per amante è un ragazzino. Ma detto da lui è normale. Vabbè, ma allora chi è? È mio figlio. Voi avete un figlio? Non l'ho mai saputo. E defatti non ho mai voluto che lo sapesse nessuno. Ma adesso, date le circostanze, sono costretta a dirvelo, ma solo a voi. No, ma fatemi capire, per essere uno che va in giro a buttare le caserme per aria, sarà grande. Ma no, è piccolo, c'ha 19 anni, è un passerotto. Un passerotto bombarolo? È del 49, figlio della rivoluzione. Apposta è cresciuto così. Ve lo ricordate? E chi è che se lo ricorda il 49? Sparavano dappertutto, Garibaldi sopra Gianicolo. Luciano Manara a Villa Spada. Ma chi ti ha chiesto niente? La Repubblica. Che la Repubblica, bravo, va. Un gran casino, appunto. Sì, ma per un attimo ci abbiamo creduto pure noi. Voi? Io facevo il lavoro mio, assistevo ai moribondi. E io ando stavo. Arca, aspettate, perché voi eravate infermiera volontaria. Più che altro cercavo di rendermi utile. E poi la sera con l'ossa rotte andavamo a cercare un posto per buttarci giù a dormire. Do capitava. Eh no. Facevamo freddo, questo ve lo ricordate? E come? Per riscaldarci se soffiavamo addosso come il bue e l'asinello. Se mettevamo uno vicino all'altro, stretti stretti. Stretti stretti. Troppo stretti. Pare un'eternità. Ma... quanto tempo è passato? Solo 19 anni. Uh-huh. Tanti quanti ne ha mio figlio. È curioso, eh? Ma che mi volete dire? Quello che avete capito benissimo. Ma come per una volta? Una volta nella vita, dopo 20 anni mi aspetti al varco. E adesso avete 2 motivi per salvarlo. Uno perché è figlio mio e l'altro perché è pure vostro. Non lo di manco per scherzo, io sono prete. E no, tu sei il padre. Ma il padre di chi? Non so manco di chi stai a parlare, ma chi lo conosce? Non è possibile che un giorno uno arriva e ti dice tu c'hai un figlio e uno si regola di conseguenza. No, io... No, non sono preparato. Ma se aspettavo che te prepari, gli tagliano la testa. Niente. Non posso fare niente. Io ho fatto una scelta grave. decisiva. Io non so più niente. Non so più manco giudice. Oggi stesso ho scritto al Papa. Ho dato le dimissioni dall'incarico. No! Ma la decisione resta. Io l'ho presa in coscienza. Una lettera si riscrive. E un figlio non se resuscita dopo che te l'hanno ammazzato. Metteci pure questo sul carico della coscienza. Oh, la signora contessa, le annale? Ecco qua, adesso questa va a bevete, calla calla e poi subito a letto. Che c'avete? Che c'ho? Niente, niente, preparano il vestito, devo uscire. È solo. Anzi no, fa una cosa, va presso la contessa Flaminia. Die che mi aspettasse davanti alle carceri 9. Io vado avanti. E le dimissioni? E dimissioni ci ho ripensato. Signora contessa, ha detto a mon signore che mi aspetta presso le carceri 9. È finita perché sono arrivati gli italiani? No, sono arrivati gli italiani perché è finita. Prima mi fa scrivere le dimissioni perché se rotti i coglioni poi è strappo. Oh, c'è tutto un cazzo. Eppure brav'uomo, però è di manica larga. Ogni volta qui c'è una pila di gente. Don Colombo, datemi qualche cosa, Don Colombo, datemi qualche cosa. Serafì, dai qualche cosa a sta poveretta. Serafì, dai qualche cosa a sto poveretto. Poi dico, ma Appannaggio, c'è gli amici della cassaforte? Chiede quello che c'è. E che c'è sta? Dei ragnateli dentro. Questa è calla, ma la bevo io. Così mi calmo. Sì, il primo degli interrogati è già piantonato in anticamera. Bene, liberateli uno alla volta e riportateli in cella dopo ogni interrogatorio. Ed evitate di farli incontrare. Agli ordini. Procediamo. Certo, cominciamo subito. Chi c'è fuori? Giuseppe Monti. Bene, dopo Monti portate Costa e poi Tognetti. D'accordo. Anzi, Tognetti e poi Costa. Siete voi il nominato Monti Giuseppe? Signor sì. Siete voi tra voi tre ad avere moglie e un figlio? Quali tre, eccellenza? Voi e quegli altri due che abbiamo arrestato in casa Tognetti. Ah, perché ce n'erano altri due? E non ci ho fatto caso. Ah, no. No. Eccellenza. Buonasera, è il primo? Abbiamo principiato adesso. Prego, fate come se ci fossi. Qui abbiamo prove sufficienti per condannarvi senza processo. Ma noi, prima di essere giudici, siamo preti. E non c'è colpa, per grande che sia, che non possa essere cancellata dal pentimento. Confessa i tuoi delitti. Dichiara che sei colpevole e per ricompensa avrai la grazia piena e intera. Ah, e va bene. Sono stato io. Però non mi sono pentito. E grazie per la grazia. Posso andare? No! E così non vale. E perché? E perché come la grazia è piena e intera, così la confessione deve essere conforme. Certo. E mica avrai potuto fare tutto da solo. Portare i barili con la polvere, accendere la miccia. Ci devi dire chi ti ha aiutato. Almeno i nomi. Perché solo così la confessione diventa piena e intera. E solo così io divento spia. Ma via, ma non sofistichiamo sulle parole. L'importante è che ti facciamo la grazia. Ma siccome la fate solo alle spie, io mi rimagno tutto e non mi pento più. Anche perché non sono stato io. E chi è stato? A che fa? Lasciate perdere, non ci cavate un ragno dal buco. Troppo smaliziato. Mi hanno detto invece che l'altro è più tenerello, quasi un ragazzino. Ah, ma quanto è questo? Tutte e due sono coetanei? Tutte e due del 49. Un'annata buona per il vino. Beh, certo. Siete voi il nominato Tognetti Gaetano? Rispondete, vi ho fatto una domanda. Siete voi il nominato Tognetti Gaetano? Ma che gli è successo? Ah, niente, è caduto per le scale. Gli avete menato, eh? Noi, eccellenza, ma quando mai? Ma come pare in Cristo legato alla colonna. E tu? Non dici niente? Rispondi. Sua eccellenza ti ha fatto una domanda. E che devo dire? Chi è stato a far saltare la caserma? No, voglio sapere chi è stato a menaglie. Chi t'ha ridotto così? Nessuno. Sono cascato da solo. Sì, sì, è cascato da solo. Cammina, mettete seduto. Ma siamo proprio sicuri che sta creatura... Eccellenza, sono tutti così. Di fuori sembrano angeli, ma dentro sono demoni. Non sono come noi. Che siamo demoni dentro e fuori. Tu sei nato a Roma? Sì. Quindi sei romano proprio di famiglia. Cioè, non è che uno come te... Quando deve piena una decisione sta a pensare alla famiglia, perché, come si dice, tu ce l'hai una madre. Certo. E un padre. Oh, figuriamoci il padre! Beh, che c'è da ridere! Coraggio. Io mio padre non l'ho mai conosciuto. Quindi non sai chi è? Ingravidò la madre, non la volle neanche sposare. Non è vero! Ma come non è vero? No! Ci sono i rapporti di polizia! E sono tutte bugie! Canta, canta! Ma fatelo parlare, no! Rispondi a me. Perché non sposò tua madre? Non sposò mia madre, per convinzioni sue. Aveva una missione da compiere. Era un uomo di fede. Vedete? Più sono Lazzaroni e più i figli gli vogliono bene. Come Lazzaroni? Un uomo di fede. Eh sì, ma della fede loro. Mazzini, Garibaldi, morì in difesa della Repubblica Romana. Antonio Tognetti. Chi? Il padre. Famoso, eh. Un cattivissimo soggetto. Ma sicuro? C'è un rapporto così alto, braccato da 8 polizie. Vabbè, ma allora dimmelo subito, no? Che stiamo a portare avanti l'interrogatorio. Se è figlio del padre... figlio del padre. Appunto, Talispata. Eccellenza, questi sono delinquenti costituzionali di padre e figlio. Io credo che neanche con questo ci cavamo un ragno da buco. Ma io dico che se insistiamo... No, come dire, è troppo... troppo tosto. Beh, tosto. Sì. Dunque, se permettete, il terzo vorrei interrogarlo da solo. L'istruttoria è vostra, per carità. Io sono qua in via del tutto privata. Sono stato... incaricato da una persona che ha molto a cuore la sorte del giovanotto, persona che per ovvi motivi di discrezione non posso nominare. La contessa Flaminia. Ce lo sapete? Ma che il giovane sia il suo amante lo sa tutta Roma. Vabbè, allora restate a portata di mano, perché può essere che dopo il colloquio vi debba chiedere un favore. Può darsi che prima me ne debba chiedere uno io. Così, subito. Vabbè, visto che siete a portata di mano, come si dice, una mano lava l'altra. Guardate che è un azzardo chiedere prima. Se poi è una cosa che potete fare? Eccellenza, per voi io posso fare tutto. Anche far sparire il fascicolo riguardante il giovane in oggetto? Per dirla in franchezza, io per diventare vescovo sarei disposto a far sparire anche mia madre. Non ci andate tenero? Vabbè, ne parlerò con il Santo Padre. Pensate che possa bastare? Ma eccellenza, ma come posso sdebitarmi? L'avete già fatto. Non avete fatto sparire il fascicolo? Fate conto che me lo sia già mangiato tutto, pagina per pagina. Guardia! Ammazza che freddo che fa così. Ma me danno niente, che so. La coperta, non scaldino. E voi chi siete, il sovrintendente dei carceri? No, perché ci avrei qualche dimostranza da fare. Cascherebbe nel voto, figlio. Io sono soltanto un giudice del tribunale, non è di competenza mia. Eh già, voi potete solo segare collo. Noi, lo sapevo bene chi siete. E davvero non senti freddo? No, anzi, io sudo. Vabbè, sarà la gioventù. Invece, sai, io c'ho sempre un gelo lungo la schiena. Sarà la vecchiaia. Come ti chiami? Mi fate carcerare e sapere manco chi sono. T'ho fatto una domanda, me vuoi rispondere? Cesare Costa. Perché Costa? E che ne so? Anche tuo padre si chiama Costa? Mio padre è fuori casa. Il motivo? È ignoto. Se lo sapete. È ignoto mio padre. Ah? E... tua madre non t'ha mai detto chi è? Chi è? Chi era? No, io adesso capisco che a voi piacerebbe scoprire chissà quale retroscena. Ma chi volete che sarà stato? Intrighi da salotto, da società di merda. Io comunque a mia madre gli ho mai chiesto niente. So affari miei. Ma sì, c'hai ragione pure tu. È chiaro che poi i figli vengono sul piede del rancore, delle lei. No, a me va bene tutto. No, ma io ti capisco, Fio. Mi chiamate qui. T'ho chiamato Fio. Eh sì. Abbi pazienza. È uso dei trepidi. E a me invece dovevi chiamare. Ma dimmi una cosa. Te fa proprio tanto schifo. Ci sono due cose al mondo che mi fanno schifo. Mi padre e li prego. Amore, lo sai che no, c'è? Che se mi volevi risultare antipatico ci sei proprio riuscito, ma meglio. Meglio così, e non è che andava a stringere rapporti sbagliati, che quando vai a vedere, ma a me che me ne frega. Ma a te chi te conosce? Non si prego, ma che sei embriaco? E poi l'interessamento mio è del tutto personale, proprio perché me l'hanno chiesto. E sei pure fortunato, perché ho già poco capito a te, e voi tre. Tu sei il peggio. Sì, e perché sarei fortunato secondo voi? Perché sei libero. Durante l'istruttoria non è apparso niente a carico tuo, te ne puoi andare. Che trappola c'è sta lì fuori? Fuori c'è sta tua madre che ti aspetta con una carrozza. Mia madre. E allora ho capito tutto. Che hai capito? E ho capito anche il vostro interessamento personale. E cioè? Anzi, prego. Anche se de padre ignoto, so pur sempre rampollone alla nobiltà romana. E la nobiltà romana è devota al papare. E la rivoluzione, chi la fa? Chi la fa? Chi la fa? A dire te. La fa il popolo proletario, poveracci, che non c'ha niente di suo. E se uno della mia estrazione si unisce all'ignobile plebaia, se può dire. O se può dire. No, tu mi devi dire solo quanto tempo devo stacco qua a porta aperta, mi sto a piana pleurite. Ma perché non la chiedi? Approfitta. La libertà sta in fondo al corridoio. In bed? Accesso. È lì che l'avete messa, zifre. E non mi chiamare zifrede perché non so tu zio. Ci mancherebbe altro. Ma ammazzerei dalla vergogna. Io richiudo. Ma come potete pensare che me ne vado e lascio i compagni miei qua dentro? Ma per chi mi avete preso? Eccellenza. Eccellenza, ma non ve lo portate via? Ah, sì, come no, andate a prendere, ah. Ah, subito. No, no! Eccellenza! Eccellenza, ma non vuole venire! Ma caro Don Marino, se voleva venire me l'ero già portato via da solo, no? Vabbè, ma che facciamo? E che facciamo? Siete capaci a carcerare la gente a calci e pugni? Sarete capaci a scarcerarla alla stessa maniera? Ma è una procedura anomala, non è mai successo! E succede adesso, gli date due calci e via! No. Ma che gli avete fatto? Niente. Ma io ho detto Ducarci. E sono bastati. Avanti, che fuori c'è stata la contessa Flaminia con la carrozza. Eccellenza, che c'è? Eccellenza, mi raccomando, il Santo Padre. De che? Non si ricorda, domani la lavata. Ah, ma come no? Domani ci passo. Se non posso domani, sarà dopodomani, la prossima settimana, appena posso. Ma è fatta, eh? E quella cosa lì è fatta. Sì, eh? Che devo fare con questo? Io rimetterebbe dentro. Lo rimetto dentro? Ma che stai? Dai, andiamo, fai presto. E lo porto in braccio. E come lo vuoi portare? Ma pesa. Strusciano. Monsignore, una parola. Monsignore. Ringraziando Dio, oggi è una bellissima giornata. Monsignore, monsignore, monsignore! Chi è? Mamma mia, che spavento! Che? Ma che stai a fare a portone a quest'ora? Che ne so? Mi devo essere appoggiato a riflettere e mi devo essere addormentato. Oh. senti che gran cassa! Ma era meglio che va appoggiato a letto, al caldo? Ma che uno va a letto di mattina? Ieri sera ho fatto tardi, mi sono messo a scrivere papa e si è fatto giorno. Chi è? Ho riscritto le dimissioni. Domani gliele porti. Beato che vi capisce. Questa ha mozzicato tu? Io? No. E che vi dava? Avanzi mia. È un mozzico. Beh, la cucina è piena di sorci. Magari il sorcetto è arrivato alla dispensa e ha rosicchiato un po'. Ho capito. Sono creature di Dio. Ma certo. Che brutta faccia che ci avete. È la faccia della cattiva coscienza. Stanotte ho commesso un'ingiustizia. Vabbè, chi par giudice qualche volta è ingiusto. Però fino, dimmi una cosa. Che fa un pastore se si perde una pecora? Beh, torna indietro e riporta del gregge. E se se ne perde altre due? Ma gli dice male al tuo pecoraro. Serafì, tu rispondi a me. Torna indietro e va a cercare le altre due. Bravo. Io questo stanotte non l'ho fatto. E vabbè, il gregge va, eh. E se qualche pecora si perde, magari il pecoraro manco se ne accorge, mica è colpa sua. Ah sì, ma risolvemo così, risolvemo. E poi dimmi una cosa, tu lo sai qual è il gregge giusto? Cioè, quando tu le prendi e le riporti, lo sai qual è il gregge giusto, tu lo sai? Ma io sono pure un coglione. Sì. Però la penso in un altro modo. Va bene, allora sentiamo. Ma che fai, te ne vai? Stiamo a parlare, te ne vai? Che è un mistero, un segreto, non si può dire. Oh. E il gregge va di qua, va di là, quando gli pare, quello che conta è il pascolo, perché il pascolo è tutto del Signore. Serafì, io mo ho capito perché ti sei fatto prete. Io? Sì, perché tu sei uno spirito eletto. Quando tu morirai, il tuo cadavere non puzzerà di morto, no, odorerà di fiori, di balsamo, di violette. Sarà un cadavere fragrante e io mi inchino profondamente. Bussano. E chi è quest'ora? Ma per me non è. Voi aspettate gente. No, io non aspetto nessuno. Quello che potevo fare ho fatto pure male. Comunque ci sto, eh. Io non ci sto per nessuno. Monsignor Colombo? Non c'è più per nessuno. Chiamelo che è meglio. Monsignore! Ma signore! Era male che c'era per nessuno! Monsignore! Che c'è? Che succede? Lo so, scusate, monsignore, ma questo qua appena ripiato i sentimenti si è messo a strillare. E come la passavamo il conflitto? E ma l'avevi portato qua? E ma se lo riportavamo a casa della signora contessa, il conte Ottavio? Che? Vogliamo capire, no? Qui c'avevo un posto sicuro. Sì, ho capito, ma io me lo dovevo metto. E lì che c'è? Ma dove lì? Ma niente, lì c'è una cantina, un ripostiglio. C'è pure la cassaforte. Ma te vuoi sta zitto? Beh, mettemolo qui, no? Oh, calma, che mettiamo qui? Ma poi come sarebbe? Io sono giudice, nascondo gli imputati. Se mo te sciolgo, che fai, strilli? Ma signore, non ve fidate? E io invece me fido. Anche perché se si mette a strillare, io do un cazzotto in bocca. Cammina, via qua, metti giù. Girate. Yeah. Visto? A sti giorni bisogna dargli un po' di fiducia. Sennò è chiaro che a un certo punto si ribellano, diventano... Aiuto! Che? Aiuto, fatti vedere! Oh, ma no, coi cazzotti in testa! Ma questo ci fa cascere a tutti quanti così! A monsignor, e mondo lo mettemo? Mondo lo mettemo, e mettemo lì. E io che avevo detto? Dai! Sì, ma state attenti, fate piano, prima non piate a carciare la porta, ecco, già ho capito. Ecco, poi dentro è buio, state attenti, dopo un po' ci stanno tre scalini, se era piccolo tu pia la candela, sbrigate, no? Non mi preoccupate, ma signore, che andate, ci vediamo dopo i gatti! Che succede? E sono i gatti! È cascato Cesarino! Si è fatto male? Niente, si è fatto niente! Ma chi è sto Cesarino? Vedi, questo Cesarino è... Ma che te pinci? Ma è possibile che te devo di tutto? Ma stiamo esagerando questa confidenza, eh? T'ho detto che via la candela. Allora, via la candela e zitto. Cu Pietro, dall'altra parte della terra. Un pensiero mi pia e mi confonde, è come un soprassalto dentro al petto, è un non so che nel cuore che strigno la coperta, e nel sonno me incarto, me giro e mi riporto. Dicono che è così che viene l'amore, lacrima di una stella spezza un cielo, che mi verrà a bagnare mentre che dormo, e ci trasformerà in farfalla in fiore. Io me l'insogno col sorriso tuo, che mi vieni a svegliare col primo sole, per pigliarmi col vento de carezze e dammi il primo bacio de mattina. Ma questa notte non finisce mai, che se ci avessi l'ale io me ne andrei a chiedergli alle stelle do sta il sole, che se non torna lui non viene l'amore, e caccia sto scuro, tira sul sipario, riaccendi il fuoco, fammi vedere Roma e fammi capire che c'è dietro sto muro de fumo, de cannele incenso nero. Fammi capì l'amore dove sta, e insieme a lui sarà la libertà, e insieme a lui sarà la libertà. E basta, te può conchiare. T'ho detto che non c'ho sonno, non c'ho sonno, no? Guardiamo un giro a quest'ora, sembrano due fantasmi. Ma può capitare, no? Quelle sere che ti metti sul letto, tanto bello per dormire, rimani con gli occhi spalancati, può succedere a tutti. E che ci sarà di strano? Uno apposta vive insieme, perché così. Ma che te sei rimesso a dormire? Non si può. Sei voluto venire a dormire in camera mia? Hai detto siamo vecchi, c'è un sonno leggero, frammentario, mettiamoci insieme, così schiacciamo due Ave Maria, famo due parole! Ma questa l'avete detto voi, perché io come appoggio la testa sul cuscino mi addormo come il saccio. Poi papà fa un casino dentro al letto, dei giri, dei rivolti, rantoli, di scori nel sonno. Ma guardate che siete voi, tossite, fumate e piagnete. Pure. Sì, non mi accorgete, passate sempre a piangere. Ma perché indormite, dico io? E non mi viene? Però da contare i pecori. E conto. Arrivo sempre fino a tre e poi mi fermo. Adesso io mi domando perché adoperate il pitale mio. Va bene l'intimità, ma a me mi fa senso. Ma tu dovevi dormire? E allora dormi e non rompere i coglioni. Serafì, c'è uno che sta a fare una serenata. Pure io da giovane cantavo sotto una finestra che non si apriva mai. E proprio vicino alla persiana c'è stata una madonnella de corcio che piagneva per via che era addolorata. Beh, una sera la finestra s'aprì e venne giù una secchiata d'acqua che un altro po' a poco. Così restammo a guardasse, io e la Madonnella, io tutto fragile, lei che piagneva, mi fidanzai con lei, un amore che ancora mi dura. Dormi, dormi. Tanto sto a parlare col muro. Dai, esatto. Pazienza che c'ho. Yeah. Niente, sono io, scusa, ma qua è pieno di spifferi. Che volete? Niente, passavo da ste parti. Già hai freddo, eh? Ho freddo, sì. Ecco, così va bene, inutile di io sudo. Quando fa freddo per tutti. Almeno, come si dice, è un punto in comune. Vuoi una coperta? Mi serve niente. Per carità, come non detto. Poi che continuiamo a parlare? Di che? Non so, di quello che capita, per conoscersi, per fare amicizia. Amicizia noi due? Vabbè, forse amicizia è troppo, diciamo, te capisse. Ah, monsignore, ma che andate cercando? No, dico, prendi quell'amico tuo, no? Arto, arto, biondo, biondo, che pare un San Tarcisio. E invece? E invece è il satanasso che fa saltare le caselle. Eppure tu, sì, è vero, c'hai l'aria arrogante, ma non c'hai la faccia di... La faccia da che? Ma come può essere tutta sta cattiveria che ci avete dentro e fuori non si vede? Ma che c'avete? Le posso rispondere con una domanda? Ma prego. Voi chi siete? Beh, in che senso? Chi siete voi davanti alla storia? Voi, i preti, il papare, che rappresentate? Diciamo, per potere? Sì, ma un potere che ne esiste più. Voi farete pure questo processo per l'attentato alla caserma, ma in nome di quale legalità? In nome di chi? In nome del papare. Appunto, per cui ce lo sapete che succederà in aula. Ma avanti, dimmode. Che gli accusati diventeranno accusatori e si rovesceranno le carte sul tavolino della storia. Beh, interessante. Ma vedi, Cesare, non hai fatto bene i conti, perché Ermazzo lo famo noi. Ci avevamo tutti i lassi e qua non ce l'avevo, baramo pure. Hai perso? Sì, ma allora perché non mi mandate sul banco degli accusati pure a me? Perché mi tenete prigioniero? Ah, Cesare, io ho pazienza, te sto a sentire, ma tu non puoi abusare. Ah, io abuso. Voi mi sequestrate e io abuso. Ma che volete da me? Io? Tu che vuoi da me, sempre col dito puntato, accusatore? Io stavo tanto bene a dormire in camera mia, perché mi hai svegliato e mi hai fatto venire qua? Ah, monsignore, ma vi sentite bene? Andate a letto, va, che è meglio. Ecco, è meglio. Non dite niente, vi capisco. È normale a Roma. Una città dei preti, gente sola, votata al celibato e... No, volevo dire che pure io da giovanotto mi sono innamorato di un chirichetto. Però per fortuna passa tutto. Ah sì? Allora sai che nuova c'è? Tu da stanotte torni a dormire in camera tua. Ma non si può. Io dicevo un chirichetto. Comunque accanto a me nel letto non te ce voglio più. Ecco fatto. E chi sarà a quest'ora? Tanto questa casa è diventata un porto de mare, mo me casca pure, guarda qua. Svegliate bene quando devi andare a aprire la porta, no? Tanto lo so chi è che stamattina fa. 1, 2, 3. Signora contessa, la contessa Flaminia. Che te pare? Buonasera, anzi buonanotte, gentile contessa. Scusate veramente se vi dicevo ancora così. Il fatto è che mio signore non riesce più a dormire, non riesce a prendere sonno. Poco fa mi sono svegliato e non c'era più accanto a me, perché sapete, io e Monsignore dormiamo insieme. Dai, no, è che siamo vecchi, no? C'è un sonno leggero, frammentario, no? Abbiamo detto mettiamoci insieme, ma no che uno va a pensare che... Cioè, voglio dire che... Vabbè, pensatela come vi pare a voi. Tu levate di mezzo, cammina. Mi sono svegliato, non stava più accanto a me. Prego, contessa, chiedo scusa, prego, accomodatevi. Scusate l'ora tarda, ma ho dovuto aspettare che mio marito si addormentasse. Ecco, voi ormai sono abituato. Grazie per quello che hai fatto. Io poi non ti avevo neanche detto chi era dei tre. Ho riconosciuto subito. A proprio quello doveva essere. Ce ne stava uno tanto caruccio, buono, educato, niente, era il figlio di un altro. Io ho detto, guarda che la libertà sta in fondo al corridoio, andatemi, sarcesso, no. Dico, vedi che c'è tua madre fuori che ti aspetta con la carrozza, a me coglioni. roba da sbattere al muro, un caratteraccio. Ma da chi avrà preso? Sì, è te Maria che piava da lei. E adesso come sta? Sta bene, ma c'è bisogno di correre dietro, accomodatevi. No, no, preferisco andare da lui. Oh, quanta fretta, ma come? L'avete fatto vive da solo per 20 anni? Già. E avete visto le conseguenze? E me volete far processo? Beh, per questo c'ha ragione, povera donna. Tu c'hai niente da fatela? Pastura di notte. E pavede, va? Ma che fastidio vedo? Non puoi sentire, non ti riguarda. Per quello che me ne frega. E allora vedi che te va in la verità è che una madre e i figli si dovrebbe crescere da sola. Non basta pagare il mensile. Vi sembrerà strano, ma Maria Tognetti non ha mai voluto una lira. E quello? Ma io d'altronde come lo crescevo? Lo mandavo alla caccia alla volpe? Lo allevavo tra servi e carrozze? Lo facevo diventare come il conte Ottavio, mio marito, un imbecille? E così l'avete mandato a scuola dal popolo? E che ha imparato a fa? A rivoluzione? So tempi brutti, apposta lo porto a Parigi. A Parigi? Ma sì, almeno lì è un posto più civile. E poi sta sicuro. Ma vabbè, ma quando è così ci vengo pure io a Parigi, no? Lo portiamo per mano a passeggiare Bois de Boulogne sul lungotevere della Senna. Ma sapete invece dove dovrebbe andare vostro figlio? Sul patibolo. Perché è pazzo? Ma che c'entra di che è pazzo? Ma uno non può rispondere con una cosa che non significa niente. Voi mi dovete solo di chi è. Chi è uno che a 20 anni può morire mentre noi all'età nostra stiamo ancora attaccati alla vita come ostriche, anzi come cozze? Chi è uno così? E da me lo volete sapere? Monsignore, io sono una donna. Potevate chiedermela allora se volevo sposare il conte Ottavio. Oggi a Cesarino posso solo volergli bene. E vi siete chiesta perché lui non vuole bene a voi? Ma voi siete padre da 2 giorni e già sputate sentenze. No, io voglio solo capire. E io ci ho rinunciato da un pezzo. Io voglio solo portarlo via, sì, a Parigi. E io che dico? Che dicevo? Che ho detto? Moglie, volete far fa per forza quello che dite voi. Ma i figli non so così. E noi invece di essere contenti che non ci somigliano, li volevamo per forza far diventare come noi, che poi manco se piacemo. Ah, io so voi, ma io a me non mi piaccio per niente. E allora mandiamoli allo sbaraglio. Mandiamo Cesarino alla ghigliottina solo per farvi contento. A me no, però se lui ci volesse andare, amen. Ma voi mi fate paura. Voi a me. Serafino, comandi. Accompagna la porta della signora. Ma non me lo fate neanche vedere. È meglio di no. È meglio di no. Ma non finisce così. State messo male. Hai sentito tutto? Tutto. Ma dico io, dopo tutti sti anni che vivevo insieme, ma perché tutti sti misteri? Non mi avete detto mai niente. Ma se non lo sapevo neanche. Oh, quando dovessi credere che è una bella notizia. Un signore, se voi siete il padre, io per lui che so? Ma che gli sei? Niente. Cioè, e per te non conta un cazzo. Dai, famo una partita, tiè, alza. Serafina, non è colpa mia se il perpetuo col da cazzo. Bene, vuoi che gli dico di chiamate zio? Vuoi che io lo dico? Non glielo posso dire. Non sa manco che sorbato. Stavo messi male. Stavo messi male, basta che abbia. Non me va più. Io me ne vado a letto. In camera tua. In camera mia. Ho preso il pitale, posso via? È tuo. Il pitale sì. Cesarino. Cesarino. Chi è? E chi è? So io chi deve essere. Oh, ma se lo sapete, bevia. Ho già detto che con me non c'è sta niente da fa. Non mi piacciono l'uomini, figuriamo se li prego. Ma stai a dire? Ma te dovessi credere davvero? Ma per carità, no. Volevo solo sapere così che stai a fa. Ma secondo voi, Uno che sta chiuso, prigioniero, in cantina e un po' a dormire per i pensieri. Che fa per addormentarsi? Conta le pecore? Io sto a contare i sorci. Mo perché mi guardate così? Ti piace Parigi? Parigi? Sei mai stato a Bois de Bologna? A Bois de chi? Lungotevere dalla Senna. E dove rimarrebbe sto Lungotevere? È posto sicuro dove ti vorrebbe portare tua madre. Mia madre non ha mai capito un cazzo. Già. Chissà, forse... Forse tuo padre ti avrebbe capito. Io voglio sapere perché ti piace così tanto tirare sempre in ballo mio padre. Ma tu gli vuoi bene? A chi? A tua madre! Ma voi che ve frega? Perché pure io devo capire! Ma monzino, andate a letto e vedrete che domattina ne passa tutto. Spera. Ma vattene, ma... Sì, me ne torno a letto. Me ne torno a letto. Mi schiaccerò due Ave Maria da sola. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodia d'anima tua in vita eterna. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodia d'anima tua in vita eterna. Il figlio vostro l'avete salvato, il mio no. Corpus? No. Da voi. No. Cesarino! Ma monsignor, mo basta! No, non sono me, signore, sono Serafino! Dai, allora il vizio è di famiglia! Ti te la da mangiare! Sapevo che i carcerati ci avevano il menù a carta. Vabbè, questo è il carcere un po' speciale, eh? Me ne so accorto. Che vuoi che ti prepara per pranzo, Serafino tuo? Ah, Serafino tuo, ma chi te conosce, chi te la dà tutta sta confidenza? Magari preferisci chiamarmi zio Serafino. Guarda, io te voglio proprio chiamare. Vabbè, ma che te costa? Ma c'è pure fame, no? C'ho fame sì, è da due giorni che me la devi mangiare. Ti piace il pollo? Il pollo mi fa schifo. E il tacchino? E il tacchino se ne è malati. Aspetta. Mo che ci penso? Lo sai che mi piacerebbe tanto a me? Bell'abbacchio, arrosto con le patate. Bene. Cesarino, se ti faccio abbacchio arrosto con le patate, poi te ci chiami, sì. Tu portami abbacchio, poi ne parliamo. Bussano! Non posso aprire, se non è impicciato! Viene impicciato! volta erano gli uomini ad andare appresso alle donne. Proprio vero? Sei rivoltato il mondo. No, ancora non sei rivoltato niente. Però stavo sulla buona strada, eh. Io voglio solo vedere Cesarino. Pure voi? Ah, ma allora è una fissazione. Ma perché non mettiamo il bando, non lo esponiamo come il pupo della Araceli? C'è nessuno che va a vedere Cesarino. Signora, voi lassù, lo volete vedere Cesarino? No, no, non voglio vedere nessuno, per carità. Strano, quasi ora di nove. Ma chi è Cesarino? Io voglio solo sapere se si nasconde o solo tenete prigioniero. Che cambierebbe casomai? Non cambierebbe, che se si nasconde io non perderei più tanto tempo a volere bene. Siete la ragazza sua? Va bene, entra. Monsignor, vabbè, ma non è che poi una volta che stiamo dentro Cesarino non c'è sta e voi mi fate lo scherzo da prete? Se c'hai sta paura non entra mica che sto a costringere. Vabbè, ma poi non vado, vedi, via. Però io la prima volta che mi sono dovuta difendere da un prete c'avevo 10 anni. E io l'ultima volta che mi sono dovuto difendere da una donna ce n'avevo 50. Amore, avete una lotta? Che vuoi fare, scegli o no? Ma don Colombo, ditemelo chiaro, Cesarino c'è sta o non c'è sta? Entra e vedrai. Posso servire l'abbaglio a Cesarino? Ma no, ma questo dopo, su. Ma prendo non è più buono. Ma guarda che sei mica tenuto, sa? Che so tutte queste attenzioni. E poi? Che te sei messa a sciarpa giaua? Ma che... Vabbè, io non so tenuto a portare della magnata, però voi a portare il mignolo. Che ho fatto io? Che stai a dire? Non so tenuto a portare della magnata, però voi a portare le donne. Le donne, ma che donne? Ne capisco da solo, Da solo solo te capisci, dai. Ecco, Cesarino sta qui dentro. È sicuro? Vabbè, mo vedemo, no? Cesarino! Cesarino! C'è sta il figlio? E che male figlio che vedo un cazzo in bocca! C'è sta! Allora è vero, potrete prigioniero! Aspetta! Cesarino, ci sono visite! Lasciate perdere che oggi ne hai! E allora che faccio? La mando via? Teresa! Cesarino! Tutta sta roba che si butta, ma non so io. Ma non era meglio che si mangiava un boccone prima. Gli farà male così a stomaco vuoto. Che devono fare? Sono creature. Sono creatura del Dio, capisci? Pieni di energia, capito? Sono 20 anni, ma quando ci avuti mai più 20 anni? Ma è evidente che quando... Come te lo posso spiegare? Non capiresti di te. Ah, Serafino, ma che te stai ingrifando? Ma per via, vieni via, vieni via, sì. Lasciamo perdere. Ma che devi fare? Andiamo noi, prendo le più buone. Ma che è diventata sta casa? Il vestibolo dell'inferno, gola, lussuria. E stiamo un po' grazia del Dio. E che fanno? Buttiamo. Buttiamo. Se c'è da buttare, se butta. Ma che vuoi, scusa? Che è questo? Che è? Che è l'abbraccio? Sì, vabbè, è facile a dire abbraccio. Io chiedo che è nella fattispecie. Grazie a Dio. Bravo, tu ci stai in grazia del Dio? No, io allora me lo mangio io. Che dobbiamo fare? Bisogna soffrire. Posso soffrire? Sì, un po'. Devo provare, no? Buono. Buono, è un sempre dato. Bravo, bravo. Lo dicevo io, che cabra di buono. Amo peccato il sorcio da dispensa, Appare evidente, ottimi padri, che i recenti avvenimenti sediziosi e non ultimo l'attentato alla caserma Serristori fanno parte integrante di un'unica strategia eversiva mirante al rovesciamento delle istituzioni. Giunge ora notizia che il noto pregiudicato Garibaldi, alla testa di una banda forte di ben 5.000 uomini e 5 cannoni, sta muovendo da Monterotondo su Mentana nel tentativo di entrare nel regno. Sappiamo chi sono i mandanti, ma il popolo romano è estraneo a questi fatti e si attende ora da noi un atto che, oltre a restituirgli la sacralità, suoni da monito e da scoraggiamento di simili eventi. Ed è in accoglimento di tale istanza che, saldo nel principio salus publica suprema lex, senza spirito di vendetta, ed invocato l'onnipotente Dio perché illumini le menti, constatato il delitto di insurrezione contro il sovrano, perpetrato in Roma nella notte del 22 ottobre 1867, accompagnato da incendio e da devastazione di pubblico edificio, nonché da molti omicidi di militari pontifici. È constatato altresì che di tali delitti si sono macchiati in ragione principale, con animo deliberato, Giuseppe Monti, soprastante muratore, e Gaetano Tognetti, muratore, visti gli articoli 84, 260 e 275 del regolamento sui delitti e sulle pene, ed in applicazione dei medesimi, è stata richiesta da Monsignor Procuratore per i soprannominati la condanna alla pena di morte di esemplarità, da eseguirsi con il taglio della testa. Tutto ciò premesso, Monsignori, prima di procedere alla votazione, io vorrei richiamare la vostra attenzione sull'importanza di questo processo nel momento in cui viene messa in discussione l'autorità del Papa e della religione stessa. I ribelli, gli assassini, i sicari e tutti quelli che attentano alla sicurezza del trono e dell'altare sono già celebrati come martiri da parte di coloro che negano la legittimità del potere temporale. Ora, ogni atto di clemenza, seppur ispirato ai più alti principi della cristiana carità, potrebbe facilmente essere interpretato come una conferma di tale sciagurata opinione. Ma io non vorrei influenzare le vostre libere decisioni. Ora il giudizio sta a voi. Chi si pronuncia per la condanna a morte risponda sì. Chi è contrario risponda no. E che il Dio lo perdoni. Di Venanzo. Sì. Borzato. Sì. Correnti. Sì. Fedi. Sì. Colombo. Colombo. Monsignor Colombo. Eh? Monsignore, tocca a voi. Ah, scusate, stavo sopra pensiero. Che devo fare? Ma non avete sentito la richiesta? Ah, sì. Ah, meno male, Colombo dice sì, andiamo avanti. No, no, no, un momento, io ho detto sì nel senso sì, ho sentito la richiesta. Ma allora che dite? È che volevo dire una cosa, solo che me la sono dimenticata, scusate. C'ho un po' di confusione in testa, va? Ma che sarà, la vecchiaia? Oh, monsignore, ma come voi potete ben vedere, noi siamo tutti vecchi qui dentro. Anzi, voi al confronto sembrate addirittura un bambino. O volete forse intrattenerci sugli acciacchi dell'età? No, no, no, per carità. Per quanto sembra ieri che i leoni ci si mangiavano al Colosseo. Monsignore, se avete qualcosa da dire, ditelo alla svelta perché noi dobbiamo concludere. Perché, c'avete paura che ve muore il boia? Eh già. Perché pure il carnefice è decrepito, capirai, sta in servizio dal 1802. E vi fa ridere? Perché stava a ridere? Perché secondo voi questo è un processo che fa ridere? Così, senza accusati in aula, senza avvocati difensori, fa ridere. Qui si chiede la pena di morte per due imputati che non hanno neanche confessato e fa ridere. Tuttavia, nella relazione qui di Monsignor Marino, io leggo, scusate, se non mi metto, abbiate pazienza, io leggo che Monti e Tognetti durante l'interrogatorio hanno tenuto un contegno tale da non lasciare alcun dubbio sulla loro reità. Mica mi direte che fa ridere. Ma perché dovrebbe far ridere? Oh, vedo che se cominciamo a capire. Allora, domanda, basta per condannarli a morte? Vorreste forse insinuare che non abbiamo prove sufficienti? Se sono queste è evidente che non ce l'avete, ma supponiamo che ce l'avete. Che cambia? Basta per condannarli a morte? Basta sì, basta e ne avanza. Vedete? Non cambia. Semmai cambiano i tempi, ma tanto a Roma chi se ne accorge? Voi magari pensate che stiamo ancora qui a giudicare Giordano Bruno. Ma quando cambiano i tempi, ottimi padri, cambia anche il modo di vedere le cose e cambia la morale su cui si basa la legge. La nostra legge non cambia, essa deriva direttamente dal Vangelo. Vabbè, quando è così me ne posso pure andare. Scusate il disturbo. Ma dove andate? E me ne vado, scusate, o famo discorsi seri oppure inutile. E noi non aspettiamo altro che di ascoltare il vostro. E allora, per favore, non le dico ste cose. Dicevo, visto che cambia la morale, il loro concetto di colpa e di innocenza è diverso dal nostro. Noi crediamo ancora nell'obbedienza e loro credono nelle bombe. Certo, certo che ci hanno torto loro, ma mica è detto che per questo c'hiamo ragione noi. La porta! Il processo deve continuare forse a porte chiuse. No, scusate, che c'era uno spiffero. Ma poi porte aperte o chiuse, chi deve entrare qua dentro? Io vorrei che entrasse lo Spirito Santo per illuminarmi. Se quello ci fosse entrato per sbaglio una volta, non credo che ci entrerebbe più. Monsignore, voi state mettendo in dubbio la legittimità di questo tribunale. Giovanotti, a Roma c'è la guerra, è inutile che sono nasconnemo. E qua sono zompati per aria 23 soldati di un esercito che, siccome è il nostro, ci può pure dispiacere. Ma chi l'ha fatti saltare per aria? Monti e Tognetti. Soldati pure loro. Di un altro esercito, che non è il nostro. Un esercito in borghese. Un esercito di popolo. Ma stiamo attenti, eccellentissimi padri, che col popolo ci si sbatte sempre il grugno. Garibaldi alle porte e Satana col cappello da benzaiere che avanza su Porta Pia. Fratelli, fratelli, siamo vecchi, ci avevamo le ore contate. Ma volevamo fare una buona azione prima di morire, una sola. Mandiamo il boia in pensione e chiudiamo in bellezza. Cerchiamo d'essere preti. Io solo questo vi chiedo, d'essere preti, che non ci perdiamo niente. È finita, eh? Eh sì. È proprio finita. Per cui immagino che dopo questa dichiarazione voi vi pronuncerete per il no. No, volentieri voterei no. Ma votando riconoscerei implicitamente la legittimità di questo tribunale. Per cui sarebbero buoni pure i sì. Allora vi astenete. Vabbè, ma sarebbe la stessa cosa. Niente, niente, famo così. Fate conto che io so uno che non c'è, eh? Uno che non esiste. Beh, segniamo assente e andiamo avanti. Possiamo continuare, monsignore? E a me, moglie, chiedete. Non ci sto? Meglio così. Allora, monsignori, procediamo. Ferreri. Sì. Alzani. Sì. Morini. Sì. Camilli. Sì. André. Sì. Carlos. Sì. E anch'io. Sì. 11 sì su 11 presenti. Il Supremo Tribunale della Sacra Consulta decide morte. All'unanimità. Quando verrò di Raimani, tutti i suoi figli, thank you. monti a morte condannati. E regno è salvo e noi siamo fregati. Un frate ci dirà, l'ora è sonata, la ghigliottina è pronta, parecchiata. Per Roma se ne andremo in processione, cantando senza voce l'orazione, col confessore che ci ha confessato, per darci a San Giovanni degollato. Piazza dei Cerchi è come un teatrino, e io sarò il meglio burattino. Sul parco il boy aspetta incappucciato, è pronto a buttar giù il ferro insanguinato. Peccato non vedere il mondo nuovo, ma io lo guarderò dandomi trovo. Si so pentito il frate chiederà, ma io ho creduto nella libertà. Na na na na na na na na na. Ormai è rimasto solo qualche mese, che pregherete chiusi nelle chiese. Pio nono, le teste so come i fiori, che più le tagli e più sordino fuori. L'ultimo sguardo è verso ponte rotto, e con la testa mia faranno il botto. Verrà l'Italia, verrà l'uguaglianza, vivremo in libertà e in fratellanza. I soliti postulanti, non c'è Don Colombo, e non c'è il sordo, bussano, perché dai, io so niente, ho fatto niente. Ma levate di mezzo con ste mani, dove sta Cesarino? E che voglia da me? Sta in cantina, ci ha messo te. Allora aprite. Ah, io non mi appiccio, fate voi. Ma è chiuso. Aprite. E volentieri, signora contessa, ma il fatto è che la chiave ce l'ha Don Colombo. Cesarino! La contessa! Cesarino! La contessa, no, è meglio che magari si è sentato, sta riposando. E voi che fate lì dentro? Divido la sorte! Ma voi non dividete proprio niente! Cesarino, adesso vieni via con me! Amo! Buttate giù la porta! Butta giù la porta! Ma che butta giù la porta? Che ce l'ho? Ce penso io! Ce pensa lui! No, levate, ce penso io. Aprite? Aprite, aprite. Mi tocca sempre fare tutto a me. È così che aprite le porte? Mi volete buttare giù casa? Aprite! Un momento, signora, non sta a voi decidere. Cesarino, tu che vuoi fare? Guerna con mamma? Io voglio parlare con voi. E io pure. Hai visto? È lì che stava. Sì, ma bisognava saperlo. Tu aspetta qua. E noi? E voi aspettate da là. Questa è casa mia e fate come dico io. E no. Aspetta, fra 5 minuti te lo porti via in carrozza. Serafino, porta tutti nell'altra camera, su, al piano di sopra. Forza. Prego, signori, seguitemi. Prego, signora Contessa. Com'è andata al tribunale? Cesare, io te devo parlare di un'altra cosa. Sì, qual è stata la sentenza? Mi dispiace. Non si sono riportate le carte sul tavolino della storia. 11 sì su 11 presenti. E bravo. Bravo il monsignore. Così avete votato morte pure voi. Cesare, tu ci vuoi più sta qua? Non è più un posto sicuro, te ne devi andare. E dove? A Parigi con mamma. Stamattina ho visto tutto un movimento dei francesi che uscivano da Porta Pia. Garibaldi sta a Mentana, il cerchio si chiude. E io mi sto a nascondere come un sorcio. Pure se non lo vuoi fare per tua madre, fallo almeno per Teresa. Quella ti vuole bene, è venuta da me, ha detto per carità, nascondetelo. E io pure. Pure voi che? Io pure t'ho nascosto un minimo di riconoscenza. Io non devo niente a nessuno. E allora va. Va a morire ammazzato con Garibaldi. Se ti pare da sorcio sta chiuso qua dentro. Sarà sempre meglio che mette da te la testa sotto la ghigliottina. Yeah. E usala bene. T'ho detto usala bene. È meglio di così. Monte e Toglietti saranno vendicati prima ancora che caschi la mannaia. Queste sono le cartucce. Era de poro papà mio. Ci si ammazzò per una donna, pensa. È l'unica cosa che mi ha lasciato. Mi ha detto: chi è la te, te può sempre servire. A me. Che te devo dire. Quando i padri non ci azzeccano mai. Chi è? E mo me spari o non me spari? Non me ne frega più niente, perché già mai sparato. Il nome del papà è, aprite! Shh, vado io, tanto è per me. Ma come tanto è per me? Ma che è scemo? Fermate. No! No! Fate piano, andate tutti da là! Siete là, risalite dove stavate, tutti su! Tutti su! Dondo cazzo vai, Serafì, vai a aprì, no! Che c'entra? Tu de là, loro de là! Se io dico de là, de qua, non devi andare presso a là, che è? Fermi, giù. La porta! Che? No, scusi, Serafì, la porta, che pure il capitano qua mi pare cagionevole di salute. Siete voi il nominato Monsignor Colombo da Priverno? Un tempo a Roma mi conoscevano tutti. Allora seguiteci. E il motivo di grazia? La difesa da voi pronunciata in tribunale in favore dei criminali Monti e Tognetti. In poche parole, mi arrestate. Abbiamo ricevuto ordine di scortarvi in un posto che non possiamo rivelare, ma se posso aggiungere un parere personale, vi consiglio d'obbedire. Non mi metterete mica a mano ai gesuiti? Ebbene, sì. Sua Eminenza la sta aspettando. Quale onore! Il Papa Nero! Potete aspettarmi un momento fuori mentre metto il mantello? Prego. Serafino, mantello. E il mantello, uno che esce vuol mantello, no? Il mantello. Ma come? Voi li avete difesi? Io? No, io ero assente. Solo che ne so, a un certo punto mi sono messa a parlare. Ho un po' improvvisato, dico la verità, e saranno presa a male, sai com'è, quelli sono vecchi, sono permalosi. Ma no, quelli sono vendicativi, lo ammazzeranno! Perché tu che me volevi fare? Vi chiedo scusa. Oh, ma che bevi a tutti e due? Venite qua. Figli miei. Scusa, Cesare, ho detto figli, che vuoi fare? È uso dei preti. Ma dove portano? A Serafì. E te ci mette pure te, eh? Eccomi, capitano. Teresa. Cesare. Tere, io vado a Mentana. Sì, e io ti aspetto a Roma. Ma tu ce pensi? Senza preti e senza papa. Ti è. Ch- Cesarino, Cesarino! Ma state buona! La vita è la mia, devo andare, capito? Ma dove vai? Dai, adesso non c'è sta nessuno! Ma non c'è no! Addio. Cesarino! Cesarino! Vabbè che conto un cazzo, ma almeno buonasera. Ammazzato l'amante. Vieni avanti, figliolo. Conosci queste donne? Non stare in complimenti, mettiti comodo. E non ti sentire sotto accusa. E come faccio? Io mi si sento da quando sono nato. E fai bene, figliolo. Siamo tutti sotto accusa. A proposito, sì. Questa è una lettera di pentimento di Monti e Tognetti. Hanno scritto al Papa per fare abiura e per implorare la grazia e l'apostolica benedizione. Sapessi queste povere disgraziate della madre di Tognetti e della moglie di Monti in che stato si trovano? La vuoi leggere? Per carità, ci credo. Beh, capisco che avresti preferito da parte loro una maggiore fermezza e coerenza. Conosco i vostri metodi di persuasione. Ma quei poveretti se ne sono fatti un dovere. Del resto, come potevano rimanere sordi alle preghiere delle famiglie? Guarda, guarda queste povere donne. Osserva quell'angioletto. Come potrebbe un padre? Che cosa non si farebbe per i propri figli, vero monsignore? No, non lo so. Monti mi si è raccomandato personalmente affinché questa povera creatura venga accolta ed allevata in un nostro convento. Vero, Sora Maria? Bontà vostra, Eminenza. Vieni qua, figliolo. Noi lo offriremo a Dio per compensare la scelerataggine del padre e faremo di lui un bravissimo soldato nella compagnia di Gesù. Ah! Lo vedi? Lo vedi come si agisce quando si vuole aiutare la povera gente? Non come hai fatto tu. Come ho fatto io? È quello che mi domando anch'io. Quello che ci domandiamo tutti quanti. Anche il Santo Padre ne è rimasto molto, molto addolorato. Me ne dispiace assai. Comunque io non metto in dubbio la tua buona fede. Ma la strada era sbagliata. Quella portava dritti dritti alla ghigliottina. E invece la vostra? Dove li porta? Alla grazia. La grazia di chi non persegue la vendetta ma il perdono. Tu invece hai fatto l'apologia delle bombe. Ma per fortuna nessuno mi ha creduto. E molto hai peccato verso queste povere donne. Questo è vero. E a loro chiedo perdono. Bravo. Solo chi si umilia sarà innalzato. Non gliela date sta creatura. Non gliela date, la faranno crescere nell'odio verso il padre. Riportatevela a casa. Non mi pare che tu ti stia umiliando. Difatti io stavo dicendo un'altra cosa. E adesso andate, cari. Andate e abbiate fede. Il Santo Padre veglierà questa notte in preghiera con la domanda di grazia sotto il cuscino dell'inginocchiatoio per ispirarsi se firmarla o meno. Ma state tranquille. Firmerà. Firmerà. Addio, care. Addio. Andate. Sempre allegri voi altri, eh? Un oggettino semplice ma efficace. Tu non credi alla nostra buona volontà di salvarli, vero? Eppure uno lo abbiamo già salvato. Quale dei due? Il terzo. O credi di averlo salvato tu? Siamo noi che te lo abbiamo permesso. Voi sapete sempre tutto, eh? No. È che quello che c'è da sapere noi lo sappiamo sempre prima degli altri. Per esempio, che Cesare Costa è tuo figlio, tu l'hai saputo soltanto adesso, mentre noi lo sappiamo da quando è nato. Avreste anche potuto dirmelo, sebbene in forma confidenziale. Abbiamo voluto evitarti una crisi di coscienza inutile. E adesso invece è utile? Alzati, alzati, vieni un po' qua. Guarda chi c'è. Ma è il Papa? Il Santo Padre ha voluto degnarsi di vegliare da noi stanotte in preghiera anche per comunicare immediatamente al confessore la sua ispirazione se firmare la grazia. Confessate anche a domicilio? Sì, ma il vecchio è bislacco, tu lo sai. Potrebbe anche saltargli in mente ringraziarli. Sarebbe grave, eh? Eh beh, in un momento come questo sarebbe proprio un gravissimo errore. Beh, ci sarete sempre voi pronto a convincerlo. No, non ci sarò io. Ci sarai tu. Sarai tu che lo convincerai. Sarai tu, anzi, che dovrai convincerlo a respingere la grazia. E perché io? Perché solo così noi saremo sicuri del tuo pentimento e potremo considerarti recuperato. È questa la cosa, figliolo, che al di là della condanna dei criminali mi sta più a cuore. No, Eminenza, non ci contate. Io non condanno più nessuno, io non ci credo più. Come non credi più? Hai perso la fede? Ma che fate il gesuita con me? Voi avete capito benissimo in che cosa non credo. Io voglio far prete. Fatemi far prete, che è già una faticata. Ma lo capisci che facendo così stai condannando tuo figlio? Pazienza, l'avevo immaginato che il prezzo sarebbe stato questo. Comunque, lo dovete sempre via. Se non prendiamo lui, prendiamo te. Qualcuno dobbiamo pur prendere. Allora restiamo d'accordo così. Posso andare? Sei ancora il padrone. È andato via Cesarino? Quasi. Ma come quasi? Deve andare via subito, i gesuiti sanno tutto. Le guardie possono stare qui da un momento all'altro. Deve andare via. Oh, ma me lo dà la mano? Chi è? Chi è? Guarda che questo pesa, eh. Ma che è successo? Chi è questo? Chi è? È successo un fatto grave. Ma come è fatto grave? Che cosa? Sono un volontario romano. Ma non ho beccato il primo colpo. Non ho neanche fatto in tempo a via posizione. Se pensa che siamo garibaldini, se credo che sta mentando. Sì, però a Roma, io e tuoi amici miei, la nostra parte l'abbiamo fatta. Il conte Ottavio gli ha fatto un'imboscata. No, sono stata io. Lo dovevo sapere che l'amanti l'ammazzano. Come stai? È la mamma che te parla. Generale, generale, voi stavate a Roma nel 49 quando sono nato io. Poi ve ne siete annato e sono rimasto orfano. Poi però siete tornato ed ho trovato un padre. Andiamo a Roma insieme! Sì, figlio. E buttiamo al fiume tutti i preti. Nino Pizzo l'ha promesso! E allora lo fanno. Magari ne risparmiamo uno solo. Chi? Uno che ha cercato di salvare la testa al Monti e Tognetti. È amico tuo? Sto a morire. Certo che morì a 20 anni fa incazzare. I ribelli morono sempre a 20 anni. Pure quando non morono. Povera pecorella. Il Signore è il mio pastore. Nulla mi mancherà. In verdi pascoli mi fa riposare. Che avete detto? Niente, figlio. Ad acque tranquille mi conduce. Ristora l'anima mia. E in grazia del suo nome mi guida per sentieri di giustizia. No, Maru! Stiamo andando. E anche se andassi nella valle della morte, non temerei alcun male perché lui è con me. Che c'è? Mi è sembrato di sentire una voce che pregava. Ti sarà sembrato. È meglio. Andiamo, non c'è nessuno. Padre, a capo, come te pare, ho appreso in questo momento che la domanda di grazia per i condannati Monti e Tognetti è stata respinta. E ci siete stato in piedi tutta la notte. Che vi è successo, santità? Lo Spirito Santo non va illuminato? O invece di un colombo bianco vi è sceso sulla testa un corvo nero vestito da gesuita? Di conseguenza i condannati Monti e Tognetti saranno decapitati questa mattina alle 7. Cancella, sono stati decapitati questa mattina alle 7. Serafino, ma che fai? Non scrivi? Sembra come se non fosse successo niente. Serafino, i morti non morono. Cesarini è andato a dormire. E fra un po' ci andiamo pure noi. Quanto pensi che ci è rimasto prima che si fa notte? L'importante è che ci risvegliamo. Noi ci credemo e poi, oh, che ci frega. Ma Cesarino mica ci credeva. Poi bisogna vedere quando ci risvegliamo, se si ritroviamo insieme. Vabbè, io comunque i passaporti gli ho dati. Per il resto, Serafino, stiamo nelle mani sue. Dai, su, mi devi vestire che c'è la messa funebre per Cesarino. Dai, stiamo già in ritardo. Prendi i vestiti intanto, eh? Così mi vesti, presto, presto, che... Ecco qua, tutto pronto. Sono già con 5 minuti di ritardo, eh? Non fammi aspettare i fedeli, dai. C'ha proprio ragione quella ragazzina. Sei riportato al mondo. Hai mai visto un monsignore che veste il perpetuo? Dai, alzate, Serafina, prima che ci ripenso, su. Dai, così. Bravo, ecco qua. Yeah. Sì, però qua mi devi aiutare a te, tu lo sai, queste cose insomma manco dove si infilano, come comincia. Dai, su. Ci capisci solo tu, io. Ecco. Che devo fare? Ecco, bravo. Di qua, ecco. Dove sta? Dai, vai avanti, mi allaccio da solo. Mettemi bene dietro però, eh? Mi fa fare brutte figure. Dai, ecco qui. Questo va messo prima, non lo puoi mettere dopo, perché io vedi che devo fare. Devo fare così. Poi così, ancora questo non ha ancora imparato, eh? Guarda, guarda come, vedi, vedi poi che difficoltà che c'è. Vabbè. Dai. Mettemi bene, non mi fa brutta figura, per favore, dai. Questo, senza callarci, su. No, forza. Dai. Dovrò imparare una volta come si fa a mettersi a fare. Cioè, dovrò imparare. Capì una volta. Ma vedete che è così? Aspetta un po'. Chiappa qua sotto. Vedi che ci ha azzeccato? Ah, vedi, bravo. Vai. Senti che profumo di bucato, Serafì, eh? Quando te ci metti e sai lavare cose, eh? Senti che profumino. Aspetta, che stai a fare qua? Vedi, ti aiuto io, guarda che stai a fare. Ecco, giù così. Qui così. Fermo, fa perdere tempo, leaste mano. Laccio io. Con te sai quando arriviamo? Ecco, così. E così. Guarda come stai bene, quanto sei bello. Zio Serafì? Dai, no, dai. Don Colombo. Che c'è? Grazie. Prego. Sì, ma te ci abitua, eh? Forza, andiamo. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spirito tuo. La porta! E mu che vuole questo? Vuole me, non vedi là in fondo, è venuto con la scorta. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine non sul ligno, sul tintre, sul tecno meo, set tantum di verbo e sanabit l'anima mea. Domine non sul ligno, sul tintre, sul tecno meo, set tantum di verbo e sanabit l'anima mea. Domine non sul ligno, sul tintre, sul tecno meo, set tantum di verbo e sanabit l'anima mea. Corpus Domini nostri Jesus Christi, custodiat animam tuam in vitam eterna. Corpus Domini nostri Jesus Christi, custodiat animam tuam in vitam eterna. No, a voi no. Per i nostri defunti, Monti, Tognetti, Costa, Requiem Eterna Madonna Eis, Domine, et Lux Perpetua Lucia Teis, requiescant in pace. Amen. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spirito tuo. Ite, missa est.